Altra Radio Roma ha il coraggio di presentare. Ognuno, ognuno con il proprio esercito. Programma condotto, scritto e ideato. Correndo Gasperino. Buonasera Mr. Renton, come sta? Buonasera, buonasera, tutto a posto, tutto a posto. Buonasera ai nostri ascoltatori. Buonasera a tutti. Buonasera a tutto il pubblico che segue ormai affezionato le nostre dirette. Un'altra Radio Roma. C'è, sempre. Dritto. Al cuore. Allora, un'altra Radio Roma ha come scopo quello di divulgare musica Creative Commons o di artisti autoprodotti, ormai... La meniamo da 2 anni su questa storia e penso che non ci stancheremo mai di dirlo. È il nostro credo, è il nostro fondamentale spinta energetica verso un movimento. La meniamo forte e chiaro per dei ragazzi che provano a metterci di tutto per uscire fuori e cerchiamo di spingere bene bene. E praticamente abbiamo deciso di fare un palinsesto, mettersi su delle trasmissioni, e questa è una nuova trasmissione che nasce proprio oggi, no, Mr. Renton? Eh beh, penso proprio di sì. Il titolo, Ognuno il proprio esercito, è preso da un mio pensiero che mi è venuto così un giorno, pensando alla musica in generale, che ognuno comunque veste una divisa per la musica che ascolta, e quindi ognuno ha una propria guerra personale, ognuno ha qualche cosa da esprimere, ognuno ha qualche cosa da uccidere e buttare giù. Esattamente, ognuno costruisce il proprio esercito con i propri armamenti, che poi spesso sono le maschere, le difese che mostriamo agli altri e davanti a tutti. E in questo viaggio pindarico, oggi noi partiremo così con la puntata numero 1, vero Mr. Renton? Già. Siamo belli carichi noi qui da un'altra Radio Roma, il vino c'è. Sì. E siamo pronti per allietare quello che è la vostra settimana con la nostra musica e soprattutto con i nostri artisti. Yes. Lei mi dovrebbe dire adesso chi devo passare, perché se no stiamo qui che ci guardiamo in faccia ed è molto divertente, ma agli altri credo che interessi poco. Allora adesso, signore e signori, in alto le lame si difende l'onore di Roma, i mostri, scusa, sì. Tu non sei felice, io lo so. Come tu sai che non cambierò. E scusa se non riesco a farti ridere. ma il padre dei figli che avrai. E scusa se non riesco a farti ridere, a farti ridere, tanto ormai a chi gli frega più di noi, a chi gli frega più di noi, a chi gli frega più di noi, a chi gli frega più di noi. Bene, bene, bene, ci si sta veramente organizzando alla grande questa sera, siamo tutti rilassati e tranquilli, pancioli sulle nostre sedie e anche contenti di... Vede che riparte, lo sente sotto la nostra voce che ripartono questo bel gruppo romano che... Ora lo sento che lei ha recensito sul nostro blog. Sì, una delle prime recensioni che ho fatto per un'altra Radio Roma. Esatto. E vorrei anche ricordare, no, che l'altra Radio Roma continua nella sua programmazione, nei suoi progetti, entrando nel nostro sito un'altraradioroma.org. Tranquillamente potete trovare sia quello che riguarda il discorso dei podcast, quello che riguarda delle dirette che state ascoltando in questo momento e quello delle recensioni. Delle recensioni e poi ultima nata è un'altra Radio Roma TV. Sì. Dove ci sono tutte le immagini porno dei video degli artisti di quelli importanti. Però mister Gasperino, ti sei scordata una cosa? Che anche cosa? I splendidi adesivi fra un pochino. Ah sì, l'abbiamo ci detto. Roma. L'abbiamo detto, chiunque vuole l'adesivo può contattare direttamente mister Campo che ve li porta a casa lui in mezzo ai denti. Con la bicicletta. Con la bicicletta suderà perché lui vuole tenersi allenato, se vuole tenere forte e tonico, cioè, tonico. Allora io continuerei con un gruppo romano, sempre romano. Loro fanno un grunge stile anni 90, però un po' rivisto nell'arte artistica, cioè proprio nell'espressione del testo. Scrivono in italiano, quindi anche interessante per questo. Sono tre elementi, due chitarre, una batteria e due voci. Sì. Loro sono i Kevlar Project e ci presentano un brano che si intitola Divorare l'aria. Buon ascolto. Non c'è più la maggioranza. Berlusconi è salito al Colle, ha incontrato Napolitano e gli ha detto: dimettiti. Ci ha provato. Hanno votato e Berlusconi è arrivato a 308 voti, veramente erano 309. Ma uno era andato in bagno proprio nel momento che si votava. Malgeri è tornato e ha detto: scusa, mi sono assentato un attimo. Ma ci sono anch'io, eh. Sai quando si dice io nella mia vita ne ho fatte di cagate, ma questa me la ricorderò per sempre, sai? Comunque, a parte Maggeri, che uno così te lo assicuri con due scatole di Imodium, ma io Giovanni, e la scorsa notte, dopo il vertice di maggioranza a Palazzo Grazioli, è entrata una smart con dentro una ex velina di Telecafone ed è uscita la mattina dopo le 10. Guidava lei. Sospiro di sollievo di Ghedini. Sì, maggiorenne. Buonasera, Letta. Letta, per voi si avvicina il governo. Per voi Letta, intendo, suo zio, se la sente? volte può essere letale. Divorare l'aria, divorare l'aria. Ma alle volte può essere letale. Respirare l'aria, respirare l'aria, respirare l'aria, respirare l'aria. Intrappolato in una bolla di sapone, dolce ma alle volte può essere letale. Divorare l'aria, divorare l'aria, divorare. Kevlar Project, Kevlar Project, un'altra bella formazione romana di quelle che picchia. Belle spinte proprio. Belle spinte, ma io stasera ho cercato molta roba introflessa, interioras. Dunque. Allora, io farei una cosa, mi sorrento, se lei è d'accordo. Può spiegare a tutti gli ascoltatori e a me, sì, soprattutto a me che sto qui con lei, il senso di questa trasmissione? Il senso di questa trasmissione, del titolo anche di oggi più nello specifico, o della trasmissione in generale? Della trasmissione, incominciare da lì e poi entrerei nello specifico direttamente, senza guardare negli occhi a nessuno. Beh, allora, vivendo in tempi moderni abbiamo per fortuna avuto la possibilità di avere internet, cosa che magari 10 anni fa neanche si pensava minimamente. Essendo amanti della musica, seri, spinti, quella musica che ti fa male allo stomaco, quella musica che ti ricorda qualsiasi cosa che fai durante la giornata, la minima cosa, ci ha portato a capire che dovevamo fare un qualcosina di più, visto che i mezzi ce l'abbiamo. Quindi, aprendo questo tipo di radio, io penso che ognuno possa dare sfogo al proprio stato d'animo mentale, anche giornaliero, nel senso è lo stesso concetto delle pagine dell'essere iscritto a Facebook, nel senso uno posta una canzone nello stato d'animo in cui si trova, quindi per quale motivo non farlo spingendola ancora meglio in una trasmissione e conoscendo comunque formazioni valide, non non lo so, pizza e fighi, pizza e fighi, mica insomma. Stiamo facendo le cerette ai criceti qui. No, ma se pettinano manche le vongole, insomma. Esatto. Noi siamo praticamente quello che tentiamo di fare, lo spieghiamo oggi, non lo spieghiamo mai più, sì, è raccontare lo stato d'animo che può essere dettato da fatti politici, da fatti, sì, spirituali, da fatti meno spirituali ma amorosi propri, certo, o della vita lavorativa, eccetera eccetera, attraverso questa trasmissione, attraverso questa che è la musica, magari, o scritti di artisti, qui ne abbiamo diversi, e poi magari qualcosa vi faremo assaporare, assaporare. Yes. E questo è quello che vogliamo fare. Questa è la sorpresa che abbiamo riservata ai nostri ascoltatori. Certo. Ma qual è la sorpresa che abbiamo riservata a Renton? Ah, è che... Ve la diremo dopo. Perché, perché neanche lui sa che cosa gli spetta. Ecco. Allora, parlando di stati d'animo, sì, se io le dicessi... Bernova. Sì, Bernova, eh. Qual è il suo stato d'animo? È uno stato d'animo da combattimento, uno stato d'animo da essere addosso al muro, uno stato d'animo di nocche rotte, una divisa alquanto futuristica, si potrebbe dire, se vogliamo rientrare nell'argomento, come invece questo gruppetto che abbiamo passato prima sotto, una bella guerra contro i pilastri quotidiani e vetrine in generale, insomma, mi può ricordare molto dal tipo di violenza che esprimono. E comunque dico, Cybernova, dico che è un bel viaggetto. Buon viaggio su una zona di Roma, su una zona di Roma, su una zona di Roma, su una zona di Roma. We'll be right back. trova su un'altra radio Roma. Io farei un discorsetto su questo ragazzo che in qualche modo chi lo ascolta come lo ascoltiamo noi è un bel viaggio, no? Eh beh, un bel viaggio che sì, comunque nel senso è una musica che fa piacere, nel senso a chi è che non gli piace ballare, anche al peggior ballerino del mondo gli piace ballare, cioè una cosa che ti viene dentro, e questo penso che sia il tipo di musica che ti permette di sfogare in questo modo. Sì. Tranquillamente, anzi ci hanno pure suonato adesso, ci hanno chiesto quanto era il costo del biglietto per sentire. Esatto, è un ragazzo che veramente ci sa fare, questa è una traccia che trovate sulla sua pubblicazione su Giamendo. Sì, se trovate volete... tutto l'EP con 5 tracce, tra cui anche questa. Chi non è stato aperto il vino, Renton? Quella è quella di prima che è chiusa. No, il vino lo sta aprendo Montagna Umana, il nostro collaboratore di oggi. Il nostro tecnico che ci dà una mano e ci supporta e ci fa veramente piacere, perché questa radio è aperta. Chiunque volesse venire a supportare questa radio con vini, birre e quant'altro è aperta. Sì. Bene, sì. Allora io proverei a fare... Nessuno escluso. Io, se lei è d'accordo con me, proverei a fare un discorso. Sì. No, una cosa un po' più frivola. Il libro di poesie che state dicendo prima, eh? Esatto, qualcosa di scritto non da noi. Beh, scritto proprio da nessuno, vedo. Esatto, una cosa leggera. Da proprio... Io, se lei è d'accordo, leggerei e lei commenta. Va bene. La metto alla prova come a scuola. Si ricorda quando stava dietro al banco e aprivano i registri e facevano? Mi ricordo poco, però insomma sì, mi ricordo. Quelle poche volte che ci sono andato. No, ci sono andato, ci sono sempre andato, nel senso, facevo sempre la mia figura. Non racconti le sue vicende. No, sono sempre tranquillo, tranquillissimo. Quasimodo. Ah, Quasimodo, Ergobbo, grande. Ergobbo dell'Italia. Allora, no, vabbè, mo seriamente, sì. Quasimodo, no? Nel senso di morte è il titolo della poesia che vado a cingermi a leggere in questa radio, dando perfetto un senso anche interpretativo di quelli teatrali. Va bene, alla Carmelo bene proprio, sì. Bene alla Carmelo bene. Bene, quando stava bene Carmelo faceva molte cose meglio di me. Ceruli alberi, dove più dolce suono migra e nasce gusto alla pioggia nuove. Ad una fronda docile la luce oscilla alle nozze con l'aria, nel senso di morte, eccomi, spaventato d'amore. Così. Una casa così. Beh, una cosa veramente tranquilla. Sì. Beh, in parole spicce, se si dovrebbe dire in gergo de borgata, è una cartolina del verano sta poesia. se vogliamo essere schietti e diretti, però nel senso che vogliamo dare un'interpretazione, è vero che comunque accostato alla parola amore c'è sempre la parola morte, cioè Eros e Thanatos, insomma. Esatto. Qua iniziano piccole perle. Ecco, attenzione. Io vorrei che uscisse questo di lei. Ebbene, visto che parlava di scuola, ho proprio tra le mani questo gruppo che esce su Giamendo con un rock grunge, per rimanere in tema, il 18-10 del 2011, e loro sono gli Storm of Race. Il brano? School. L'altra radio roma.org. I will be. Io volevo raccontarle un aneddoto. Sì. Ed è il seguente. Tutto orecchie. Ed è il seguente. Voi mo penserete, ah, che stavi a Palazzo Chigi l'altra sera? No, non sono. Stavi a tirare monete. No, non voglio cadere in queste banalità. No, perché non siano importanti. Assolutamente. Ma voglio raccontarne un altro aneddoto. E l'aneddoto è il seguente. Venerdì scorso, io e Mr. Cocot, yes, ci siamo recati a Fuso Radio, che salutiamo tutti gli amici di Fuso Radio. Ciao Fuso Radio. Gli ascoltatori di Fuso Radio, che sono anche tanti, noi li salutiamo. Ciao ascoltatori di Fuso Radio. Perché andremo ad occupare uno spazio che va dalle 18 alle 19:30 tutti i venerdì con questa trasmissione. Piano piano si allarga, arriva con questa trasmissione per tutti. Questa trasmissione che state ascoltando in questo momento sarà in onda appunto venerdì dalle 18 alle 19:30. E quindi voi ascolterete su Fuso Radio quello che stiamo dicendo in questo momento. Perfetto, mi raccomando, spannate. Non so se ha compreso lei. Sì, comunque, sì. Detto questo qui, sì, che mi sembra era la sua sorpresa, ma l'ha capita solo chi ascolta un'altra radio Roma. Oh! Ma chi ascolta questa radio non la può aver capita. Vabbè, cacchio, ma stavo concentrato sul discorso, me la buttare così, merita la sorpresa, uno ti aspetta il fiocchetto, la bella sorpresa, cioè uno poi dice un sorpresone. Cioè, vabbè, questa è una sorpresa, è che sembra che ci penso bene. Un'altra radio Roma, sì, con la sua rubrica Denartra Radio Roma si trova su Fuso Radio dalle 18 alle 19:30 con tutte le trasmissioni dirette che si susseguiranno, no? Oggi è appunto ognuno con il proprio esercito. Beh, Fuso Radio è una bella boa, cioè, capisce lei che cosa è successo. Vabbè, detto questo, che l'ha capito solo gli intenditori, agli intenditori. Vabbè, scusate, sono contentissimo. I postumi sono quelli della sbornia. Beh, magari c'è sempre qualcuno che comunque non lo so, che dirà: questo non lo voglio più sentire. No, tocca a più che altro me lo appunto e non lo voglio più. No, vabbè, più che altro tocca vedere se gli è piaciuto quello che abbiamo detto. Appunto, non lo voglio vabbè, più. Vabbè, dai, come personalità siamo abbastanza eclettiche, dai, col tango. Sì, dai. E con la, se lei imparasse a scrivere non dai cinesi, no, ma vabbè, dalle mamma mia, ma me lo dite tutti, ma nel testo uno comprenderebbe quello che lei scrive e potrebbe anche decidere. O dovrei scrivere al numero, forse si capiva un pochino, okay, di più. Ho capito, perché io sono una persona molto intelligente. Ma quindi, vabbè, non è che scrive in aramaico, comunque, nel senso. No, lei non scrive in aramaico, scrive in rentese. Scrive. Il famoso Renton applicato alla scrittura. Renton italiano Renton. Esatto. C'è un vocabolario proprio apposito che è il suo. Bene, che cosa ci dice del gruppo che stiamo per passare? Allora, adesso, signore e signori, un gruppo a cui io sono molto affezionato, anche per amici che ci sono all'interno e che li rappresentano. Questi sono un gruppo di Pisa, i Seven Day. La canzone che abbiamo scelto si chiama Seven Heaven, ma non ha niente a che fare con Seven Heaven. Se lo ricorda, Mister Gasperino? Come era troppo anziano. No, impossibile. No, lei che mi dà dell'anziano, a me sono appena 22 anni, voglio dire. Comunque ho scelto anche questa canzone, insomma, se andate anche sul canale loro di YouTube trovate il video che è perfetto e adesso ci spariamo un bel po'. Chi ne vuol sapere di più va dove? Su YouTube? Su YouTube anche, sì. Va su YouTube, spinge 7 Day e c'è comunque una sezione con tutti i video che hanno fatto questo fantastico gruppo grunge che ci ricorda i bei tempi di Seattle. Perfetto. Allora, adesso come on, 7 Heaven e vai. 7 Day. A bridge for a town. Seven Day. Eccolo rientrato. Yes. Seven Day. Stiamo notando che cacchio di musica vi stiamo passando questa sera? Beh, è bella mischiadona, nel senso, cioè, questi qua sono i ritmi di guerra. Sono veramente... Cerchiamo di farvi innamorare di quelli che sono... i sentimenti che i gruppi in qualche modo possono esprimere attraverso la propria arte, e noi in qualche maniera cerchiamo di farli esprimere, come per esempio tutti gli ultimi venerdì di ogni mese al Mash Malone. In questo momento stiamo spingendo per un evento hip hop, e chiunque vuole viene e se fa un cinchetto con noi a base di room, insomma, giusto per dire viva Dio che esiste il room. Il room a volte le dà una mano, seria. È l'unica volta che riconosci la anche presenza se a me comunque di Dio, non no? fa impazzire, se lei senso, ci pensa, quando e piace più la vodka. Beh, i room. Vabbè, certo, se dobbiamo fare una cosa di una bella seratina, chitarla con il room, no, dei no, anni, senza chitarla, lei va lì, fa un cinchetto di room, un secondo, vabbè, ho capito, un terzo, però bisogna vedere pure quanto... che tipo di room ti danno. Certo, mica stiamo a parlare dei pizzi. Se ti danno il Pamperos di Torvagliani, gas. No, se lo beve, non è che, il Pamperos, se lo bevono da sole. Se lo beve tutti insieme. Quindi parlavamo di musica, e poi, come vedete, e come è caratteristica di questa web radio che sponsorizza solo, ripeto, gruppi Creative Commons, solo o quelli autoprodotti, quindi quelli lontani dalle licenze SIAE, vi dà modo di conoscere un bel po' di roba. E siccome ci stiamo accingendo ad arrivare, insomma, a metà di questa trasmissione, io passerei un pezzo che sicuramente chi è voglioso e chi ne ha voglia può saltarne tranquillamente dal seggiolino davanti al computer e fare dei salti in aria, non lo so come... dei capriole, insomma, quello che gli pare. Quello che gli pare, insomma, basta che ballate. E lo posso un attimino anticipare, sono i Coldplay con... No, Chopin, no, no. Chopin, esattamente, lei non sa, ma una volta Mr. Campo riuscì a dire durante una trasmissione di diretta di Classica, sì, Chopin lo trasformò in Chopin. No. E a fianco aveva un maestro di musica classica che è svenuto. Fantastico, convulsioni. Che ricordi, vabbè. Detto questa stupidaggine, per ricordarci sempre di Mr. Campo, sia nessuno, sia lo stupido, si può dire, no, in assenza non si dice. Se dice avanti, quindi insomma, esatto. C'è bisogno di nuovo. Questo è un argentino, e ci presenta un bel, ma non voglio dire nulla, dico solamente buon ascolto. Sentiamo, sentiamo. Tra Radio Roma, The Web Radio, The Jotens, Your Mind. Signore santissimo podcast della regione del podcastismo. Io sento squillare qualcosa, già ci sono venuti a piacere. No, no, segretini. Let's Gli amici imborghesiti, un altro gruppetto di Roma, fan delle chitarre e del sole, sicuramente, dal tipo di musica che esprimono. Il titolo è Suicidio Sincrosia, titolo di una canzone azzeccata, una tonalità di voce abbastanza, come se un po' di a Roma paracula, tenendosi molto sullo stonato, sul basso, però insomma piacciono parecchio. E quindi questa formazione romana ci porta ad aprire un altro discorso fondamentale. Allora, la frase "Viva l'Italia, viva la guerra", lei che cosa ne pensa, mister Gasperini? Mi era addirittura abbassato per non voler rispondere a una domanda come questa. Viva l'Italia, viva la guerra. In Italia, l'Italia è famosa per il sole. Sì. È famosa per l'amore. Una volta si parlava degli uomini latini e si pensava a un italiano. Oggi non più. Moro. L'Italia è la rappresentazione della spensieratezza napoletana, dell'allegria e della paraculaggine romana, sì. della capacità ironica e di mettertelo nel di dietro toscana, sì. È proprio uno studio delle regioni. Sì, no, l'Italia è fatta da tanti piccoli sa che l'Italia è lunga, sì. Non è concentrata, e quindi questa allungare porta a avere diverse sfaccettature, certo. e tutte belle. Non immagino un paese migliore dell'Italia, immagino un paese in cui si sta meglio dell'Italia, sì, sicuramente. La guerra, siamo sempre in guerra qui in Italia, siamo in guerra contro... La guerra invisibile. Sì, la guerra. Anche se servirebbe un tipo di guerra intellettuale. Sì, e questo... Un tipo di guerra intellettuale, un qualcosa che ti possa permettere di uscire da casa o di uscire dal lavoro e averci un qualche cosa in più. Lei... Oltre a un qualche cosa che sia di per sé. D'aiuto. Lei è giovincello rispetto a me, io mi ricordo che si usciva e si andava ai teatri, si andava in circoli a discutere. Ma questa non è una cosa che si è persa, però comunque non c'è si è persa, ma si è azzittita con le televisioni. Per fortuna che poi è subentrato internet. Oh, e santo internet! E ha santo fatto sì. Senta, che... ma un ricordo al caro Steve Jobs. Comunque, ma lo so, guardi, che lei non lo ama, ma io ho una macchina che permette grandi sì, cose. Non solo lei, qui in radio, a me, io che le devo dire? Io sono per tutte le tecnologie libere, guardi. Io qui ho Linux, sono 2 anni e mezzo che un'altra radio Roma funziona attraverso questo computer. Io sono un affezionato a questo splendido mobilio. Questo mobilio, che voglio fantastico. Dire, un cazzo di perché ha proprio del suo, poi c'ha quella fessurina nera e sembra proprio che te sorride. Capito, cioè, un esatto, bel mega bello, occhio, esatto. Una bella rappresentazione, esatto, della Blade Runner, esatto, romana. E pensi che in questo studio, che è stato lo studio numero 1 dell'altra radio Roma, perché poi abbiamo aperto il 2 e stiamo per aprire il 3. Il 2 dov'è? Il 2 è a casa, non si può dire per... il 2 è a casa di Cocot. Il 2 è a casa di Cocot, dove abbiamo trasmesso le ultime 2 dirette. Non queste 2 qui, le ultime 2 dirette fatte tutti quanti insieme. Alta classe radiofonica è stata espressa in quelle serate. Però noi siamo qui, non lo trovate nel jingle, poi comunque, esatto, delle... in tutte i nostri jingle trovate questo, un'altra Radio Roma, le anche cazzate jingle che si dicono qui su un'altra Radio Roma, le trovate nei nostri jingle. ma soprattutto trovate quello che è la voglia di trasmettervi musica. La voglia di trasmettere musica, musica, certo, senza nessuna regola, perché come vede noi anche questa sera abbiamo rispettato la regola dell'altra Radio Roma, che non esiste nessuna regola. Non seguire un filone logico. Esatto, esatto. Siamo passati così dal rock alla rock, grunge, elettronica. Sì, sì, ah, è vero. Indie anche, se vogliamo. Sì, sì, sì, sì, sì, anche un po' country, Brit, se vuoi. Se no, country no, te prego. Anche un po' country, cioè, no? Tipo country, no. Vabbè, e detto questo, io vorrei passare una cosa che viene dalla Germania. Che pensiero ha dei tedeschi? Che pensa sui tedeschi, su quel popolo a noi così lontano e una volta a noi amico? Una volta a noi amico, ma nel senso la Germania io adesso in sé per sé, anche se non ho visto città come Berlino, ma ho visto soltanto città come Monaco e Norimberga, non so, vedo che comunque hanno una civiltà molto più elevata di noi italiani medi, vabbè, ma quello là si può riscontrare anche quello in altre facile cose. Però nel senso, io se penso alla Germania, penso a un popolo che comunque ha avuto le palle di rialzarsi sempre. Bene. Quello sì, sia nel bene che nel male, sia sotto una bandiera che sotto un'altra, con una divisa o con un'altra. Ha comunque sempre alzato la voce, e come esercito era schierato bene. O con un esercito o con un altro. Sì. Ognuno il proprio. Ognuno il proprio. Bene, i tedeschi si chiamano Desceri Colas. Ah. E ci cantano poco così. Volete capire, sì o no? Chi siete voi? L'onorevole. Ma io? Io? Ma mi faccia il piacere! Sentite, questo passa ogni... Onorevole! Sì, onorevole! Onorevole! E c'è poco da ridere, sapete? Ma guarda che maniera! Onorevole! Tranquillo! difficile fare le cose in questa radio, perché mentre stai preparando una cosa importante finisce il pezzo, e stavamo comunque ascoltando questo gruppo che, ripeto, è tedesco. Loro sono, non l'ho ancora scritto nella playlist, ma si chiamano i Desheri Colas, un gruppo da film Il Corvo, veramente, esatto, un bel gruppetto, sì, un bel sottosuolo. Sì. Falling Through Floors è la traccia che stiamo riascoltando sotto le nostre bellissime voci, aperto magistralmente da Totò. Ah, perché il nostro mitico Totò, la perla, a noi, cioè, voglio dire, certi artisti ci hanno segnato, ci sono rimasti nel cuore, e quando possiamo li ricordiamo, così, perché ci sono dentro. Io vorrei porle una piccola domanda, mentre appunto il brano è qui sulla scaletta. Sì. E la domanda è la seguente: lei che segue lo sport, in particolare il calcio, sì, va bene, neanche troppo, come Mr. Campo. No, neanche troppo, va tutte le domeniche allo stadio come Mr. Campo. Lei che cosa ne dice della notizia che è comparsa su tutte le prime pagine, sui telegiornali, della nazionale che si è allenata sopra un campo di calcio, sì, giù in Calabria, sequestrato all'Andrangheta, cercando di dare un messaggio che è, quindi lei mi sta chiedendo qual è il messaggio, qual è il cioè uno leggendo una notizia del genere dice, qual è il messaggio? Allora, o penso di andare a un alimentare e cercare l'anduia più spesso, forse, che non è dannosa, aiuta contro l'infarto, nutre, perché bella grassa, attenzione, e aiuta meglio del Viagra, sì, molto. Diciamo, cioè, a me manco mi piace il piccante, però insomma, ringraziando Dio, cioè, almeno quello. Comunque, ma allora, arriverà a un'età brutta e cattiva, no, se spera di no. Comunque, allora, o di comprare l'anduia, o di dare sostegno, penso, a Gattuso dopo che gli è scoppiato un occhio, o fare un favore alla regione Calabria, all'Andrangheta stessa. Se lei ci pensa, no, però gliel'hanno sequestrato. Sì, il campo gliel'hanno sequestrato. Però comunque gli fa da nome. Però gli se parla del pubblicità, sì, certo, o no? Quello là sì. E allora? A chi è andata a favore? Cioè, intanto il campo gliel'hanno già rubato, ma se nessuno diceva nulla, era stato sequestrato a posto. No, ci mandiamo la nazionale di calcio. Vabbè, però comunque in Calabria a sto periodo se sta meglio, dai. Comincia a far freddo. No. Spera che morano tutti, cioè, i gelati, no, i frequentatori d'Andrangheta. Non può succedere questo. Però io credo che realmente sia stata, lei legga sempre un doppio fine, non si fidi. No, io lo leggo il doppio fine, infatti è proprio questo, è che, cioè, se posso permettermi, rompono le palle sulle leggi e bavaglio di non tirar fuori nomi e cavoli vari, le notizie che si leggono, Palotelli è di qua e dell'là, il campo della nazionale che si gioca a 'Ndrangheta, nonna Pina che ha fatto la spesa al mercato a Campo dei Fiori, cioè. Io voglio dire, in questa trasmissione riusciamo a tirare fuori grossi concetti e in parole speech e anche grosse minchiate. No, non erano riferite a me le minchiate, chiaramente. Un soggetto a caso. A caso, siamo io e lei, no, a parte gli scherzi. E, bene, lei voleva passare un gruppo che da prima che mi sta dicendo me li passi, e sì, io per un motivo o per un altro mi si è staccato il filo, il cane ha vomitato, mi si è scoppiata la prostata, adesso ce l'ho davanti. Allora, il gruppo si chiama Distanti, un gruppo che si trova su MySpace, un EP di 5 brani, e un gruppo che si avvicina molto a una rinascita del genere New Romantic, insomma, cioè un urlo in mezzo ad una spiaggia, in mezzo ad una via, in mezzo ad una stanza o dentro se stesso. La canzone che andiamo a sentire è Abitudine, speriamo di abituarci bene. Abitacoli distanti. Pochi giorni prima che tu morissi, la morte aveva messo gli occhi su un tuo coetaneo. A 20 anni tu eri studente, lui manovale, tu nobile, ricco, lui un ragazzaccio plebeo. Ma gli stessi giorni hanno dorato su voi, la vecchia Roma che stava tornando così nuova. Ho veduto le sue spoglie, povero Zucchetto. Girava di notte ubriaco intorno ai mercati e un tram che veniva da San Paolo l'ha travolto e trascinato un pezzo per i binari tra i platani. Per qualche ora resto lì, sotto le ruote. Un po' di gente si radunò intorno a guardarlo, in silenzio. Era tardi, c'erano pochi passanti. Uno degli uomini che esistono perché esisti tu. Un vecchio poliziotto sbracato come un guappo. A chi si accostava troppo gridava fuori da coglioni. Poi venne l'automobile di un ospedale a caricarlo. La gente se ne andò, restò qualche brandello qua e là. E la padrona di un bar notturno, più avanti, che lo conosceva, disse a un nuovo venuto che Zucchetto era andato sotto un tram. Era finito. Pochi giorni dopo finivi tu. Zucchetto era uno della grande greggia romana ed umana. Un povero ubriacone, senza famiglia e senza letto, che girava di notte, vivendo chissà come. Tu non ne sapevi niente, come non sapevi niente di altri mille e mille cristi come lui. Forse io sono feroce a chiedermi perché ragione la gente come Zucchetto fosse indegna del tuo amore. Ci sono posti infami, dove madri e bambini vivono in una polvere antica, in un fango d'altre epoche, proprio non lontano da dove tu sei vissuto, in vista della bella cupola di San Pietro. C'è uno di questi posti, il Gelsomino. Un monte tagliato a metà da una cava, e sotto, tra una marana e una fila di nuovi palazzi, un mucchio di misere costruzioni, non case, ma porcili. Bastava soltanto un tuo gesto, una tua parola, perché quei tuoi figli avessero una casa. Tu non hai fatto un gesto, non hai detto una parola. Non ti si chiedeva di perdonare Marx. Un'onda immensa che si rinfrange da millenni di vita, ti separa da lui, dalla sua religione. Ma nella tua religione non si parla di pietà. Migliaia di uomini sotto il tuo pontificato, davanti ai tuoi occhi, sono vissuti instabili e porcili. Lo sapevi, peccare non significa fare il male. Non fare il bene, questo significa peccare. Quanto bene tu potevi fare, e non l'hai fatto. Non c'è stato un peccatore più grande di te. Pierpaolo Pasolini, a un papa. Shut up. The 2000 Shock, un altro bel gruppetto di Roma che sta cominciando a farsi un attimino conoscere. Più che un'altra radio di Roma, come sembra, non lo so, Radio Cassa Dritta, porco Giuda. Cioè, poi dopo Pasolini è il binomio perfetto nel rispecchiare quello che è il 2011, la rivoluzione che potrebbe essere. Ma sa, Mr. Renton, lei pensa di aver fatto una vaccata a mettere Pasolini attaccato a un pezzo come questo? No, io per niente. Posso assicurarla e tranquillizzarla che se Pierpaolo fosse vivo le direbbe grazie. Ma di gente magari, come lui, di gente come lui purtroppo nel mondo non ne vogliamo e la eliminiamo ne facciamo, però poi rimangono gli iscritti, ecco almeno quello, e una radio fantasma, una radio fantasma come la nostra che occupa questo spazio anche su Fuso Radio, bandiera pirata, bandiera sulle onde romane, sulle anzi onde sul mare di Ostia. Sul mare di Ostia, sì, insomma, dal mare di Ostia verso Roma, come una grossa mareggiata, un'onda gigante che investe Roma, un'onda colorata, compreso il cupolone di cui abbiamo letto poc'anzi, perché se deve salvare, invadiamo, ma c'era un jingle che recitava: partiamo dal web per ritornare a Roma vincitori. Un nostro jingle recitava questo. Ah! E poi. Io non ne sapevo niente. Ma lei jingle non l'ascolta, che devo fare? Lo so. Allora, su, adesso lei prometta a tutti gli ascoltatori che da qui alla fine del mese preparerà un podcast. Dai. Prometto. Allora, io, Mr. Renton, prometto di fare un podcast per un'altra di Roma e per tutti quelli che ci seguono. Bravo. E poi soprattutto anche per me, perché mi piace pure ascoltare a me la musica, quindi comunque, Il microfono davanti alla bocca. Sì. Ok. Però potremmo chiamare qualcuno. Ora ci pensiamo. Nel frattempo io da questi suoni, da queste emozioni sonore, passerei ad altro tipo di emozioni sonore completamente diverse. Come un po' l'indole di questa radio, di questa trasmissione, che ognuno porta il proprio esercito per combattere questa guerra. Ma se lei ci pensa, la vita è una grande guerra. Sì, dove guerra poi continua. Ci sono piccole battaglie che può essere il lavoro. Ma uno nel generale però se lo sceglie pure a seconda di quello che sente. Perché a lei non piacerebbe un bel Ian Curtis in divisa, un bel Carco Bene in divisa. Beh, che ti guida Tex Will. Sì, Topolino. Proprio da anche Zagor mi potrebbe aiutare fino all'ultimo. Zebra è ignorante, sì. Zebra lo metti sulla fascia, va scritto con quella magliettina gialla col fulmine. Ascolti una cosa, lei come se l'hai mai... Prima abbiamo letto un pezzo che era di Quasimodo, che era appunto quel pezzo che parlava della morte. Sì. Ma lei come se la immagina la morte? Come finisce un uomo? Come finisce un uomo? Un uomo finisce... Sì. Visto che abbiamo letto anche la fine del Papa, sì, no? Sì, La storia del Zucchetto. Sì. Per me la morte, nel senso, il senso della morte è quando una persona non riesce più a fare niente da solo. Quindi finché poi alla finché fine... ce la fa con le sue forze, essendo una persona adulta, lo considero un essere umano. Fino... Nei momenti in cui deve regredire per... per riconquistarsi il posto da bambino che era stato magari 40, 30, 50, 60 anni prima, la vedo già una morte forse ancora più forte di quella vera e propria del andare a fare un six feet under, una gita a lungo periodo. Fino quindi all'ultimo battito cardiaco, fino all'ultimo battito. Sì. Fino all'ultimo battito cantano gli Astolfo sulla Luna. Pronto? Pronto, Mr. Cocot? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, Crocot. Buonasera, io vi ho detto che non vi rispondevo. Buonasera. E ha risposto, ha ceduto. La tentazione di rimanere in radio. Perché credevo che finiva la trasmissione 7 minuti prima. Noi siamo puntuali. Ci avevamo pensato, ma volevamo includere anche lei nel saluto degli amici di Fuso Radio, prego. Ah, complimenti, prima di tutto complimenti per la trasmissione e siete stati bravi a non finire prima, perché sennò vi levavo nel salario a fine mese i 7 minuti, naturalmente. Maledetto, dacci i nostri 20 euro. Ho sentito tutto. Certo, è registrato. Allora, io qui dall'università della patata allegra a voi e a tutti gli ascoltatori di Fuso Radio, e vi ricordo che Nastro Radio Roma sarà in onda ogni lunedì. E ogni venerdì. Fantastico. Allora, qua vogliamo fare la diretta a 3, E sarà la prossima diretta, sarà sicuramente, avremo tempo, perché un'altra Radio Roma non morirà mai, perché avremo tempo nell'infinito. Allora, si sente docet, yes. Chiama Campo e digli che la radio si è sciolta. Si è sciolta perché io ho scritto un messaggio agli amici che lei sa. Li capiscono da soli comunque. E li volevo intervistare, ma lei si è arrabbiato. No, ma io lo so, io adesso qui non è che posso parlare tanto, perché mi sembra un giornalista di quelle che fanno i collegamenti dai campi sportivi. Allora guardi, ci dica le condizioni di... Io sto qui all'università e sto entrando la patata a volumi, perciò vi devo lasciare. Ok, la lasciamo alla va sua... bene, la lasciamo alla friggitrice umana che è... E complimenti a Mr. Renton e a Mr. Gasserino. Thank you. Grazie mille, Mr. Cocot, del suo intervento. Bella Cocot. Arrivederci. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Allora, è novembre ed è partita questa trasmissione dal titolo Ognuno con il proprio esercito, simboleggiando appunto tutte le guerre e tutte le armature che uno si mette anche addosso, se vogliamo, no? Certo. Per nascondersi da questa società, per nascondersi e mostrarsi, questa società fatta di banche, porcala, bollette e quant'altro. Di stipendi che non arrivano mai alla fine del mese. Io farei un grosso applauso a Mr. Renton, che per la prima volta si è trovato di fronte ai microfoni. Grazie. Ringrazierei tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che fino a questo momento ci hanno seguito. Grazie anche a voi, un bacio enorme al nostro tecnico The Mountain Man, che è qui vicino a noi, naturalmente alla mente malata, ma comunque la mente, Mr. Gasperino, per noi. Grazie Mr. Renton. E ringrazierei anche gli amici di Fuso Radio e gli artisti, che senza di loro noi non ci saremmo. No. Non si sa di che parlare. Probabilmente ognuno con il proprio esercito vi dà appuntamento al prossimo mese. Yes! Un saluto a Mr. Cocot dall'altra parte di Roma e alla sua università. Bye bye Cocot! E alla prossima... Buonanotte da Mr. Gasperino e Renton. Ci salutiamo con un gruppo che viene dal Regno Unito. Loro sono i BTS e ci presentano A Yes on You, fra una settimana con Altra Radio Roma. Radio. Un'altra Radio Roma. I don't care what people say, I don't care what questa è un'altra radio Roma. Un'altra radio Roma. Un'altra radio Roma. Questa è un'altra radio Roma. Un'altra radio Roma. Roma. Roma. Roma.